lato scuro, e forse la paura che mi fa sembrare sicuro, sentimenti che si manifesto dallo stato puro, avvelenano il mio corpo come fossero cianuro, più duro l'ingranaggio quando salta un dente, ne salta ancora un altro in bocca, sento la corrente, registratore pieno perché incasso solamente, fottutissimo perdente, bello agli occhi della gente che comprende, sa che vivo dove non c'è luce, a tastoni con un cieco senza il cane che conduce, come Rambo vivo giorno dopo giorno e si deduce, il presente è il mio futuro, ho perso le fiducie, cuce, ferite la mattina, il mio primo pensiero mentre la mia fine si fa più vicina, è solo un analgesico come fosse morfina, muovo un passo dopo l'altro, sono l'uomo morto che cammina. Non ho maschere da togliere, gioco a volto scoperto, metto tutto in chiaro, prendi o lascio tutto il resto, compromessi non ne cerco, stanne certo, compromessi non ne cerco, stanne certo, sopra un palco senza pubblico proseguo il mio concerto, non basterà un dissenso, tanto sai che non mi fermo, compromessi non ne cerco, stanne certo, compromessi non ne cerco, stanne certo. Tornando sui miei passi sono 12 da prendere, il primo resta quello di redimersi ed ammettere che esistono i miei errori e quel signore di tre lettere, peccato prenderò tutta la strada io per smettere e riflettere se qualcosa che ho fatto è forse buona, magari questo pezzo mi risveglierà dal coma, figliolo me la prendo io quest'anima mai doma, ti ho prenotato un viaggio in fondo al pesce come Giona, suona, dai suona non fermarti, non bevo più martini, qua per me è finito il party, rimettimi anche insieme però chiamami le sarti, 1 milione sono i pezzi piccolissimi, comincia col chinarti, avanti, schiaccio sopra l'acceleratore, spingilo sul rosso quel fottuto contatore, la mia corsa dura anni, mica giorni, mica ore, prova amore come quel pittore Vincent che scalpò. Non ho maschere da togliere, gioco a volto scoperto, metto tutto in chiaro, prendi o lascio tutto il resto, compromessi non ne cerco, stanne certo, compromessi non ne cerco, stanne certo, sopra un palco senza pubblico proseguo il mio concerto, non basterà un dissenso, tanto sai che non mi fermo, compromessi non ne cerco, stanne certo, compromessi non ne cerco, stanne certo. Sono la pecora smarrita, quella che racconta Julius, non sono quieto come Ringo, rap a Fast and Furious, non vengo a lamentarmi nel tuo cazzo di tugurio, le cose qua non cambiano come dice Notorious, obitorio che chiama la presenza, paura porta l'ira, l'ira all'odio e sofferenza, il cammino verso il lato scuro esteso ma pazienza, ancora resto solo con me stesso alla partenza, pensa e quando pensi salirà il timore, ricorderai le pene che hai sofferto per amore, da dove salta fuori questo cazzo di oratore, stare bene insieme a lui nel letto solamente per un paio d'ore, dolore, no non siamo all'apice, non scenderà una lacrima, non siamo come il salice, di stabilità resterà vuoto il mio calice, ho rapporti turbolenti anche con le fighe lattice, non ho maschere da togliere, gioco a volto scoperto, metto tutto in chiaro, prendi o lascio tutto il resto, compromessi non ne cerco, stanne certo, compromessi non ne cerco, stanne certo, sopra un palco senza pubblico proseguo il mio concerto, non basterà un dissenso, tanto sai che non mi fermo, compromessi non ne cerco, stanne certo, compromessi non ne cerco, stanne certo.